Viaggiatori, vi sbagliate, ma rispetto la vostra scelta. Tuttavia vi lascio la mappa. Anche se deciderete di non usarla, sento che un giorno mi ringrazierete.